Emmy Levy è un'altra di quelle autrici di grande talento morte troppo giovani per lasciarci qualcosa di più di un assaggio della loro bravura. Insieme ad altre grandissime antenate morte prima dei 40 anni, come le sorelle Bronte, Irene Mirosky, Catherine Mansfield, Mary Wollstonecraft, la statista Evita Perón, le artiste Virginia Frances Sterrett e Dora Carrington, Emmy si suicida a 28 anni. E questo la dice lunga sulla sua anima, che in risonanza con Virginia Woolf, anche lei suicida ma un po' più anziana, si era probabilmente resa conto che quella, per i diritti delle donne in un mondo patriarcale, era una battaglia che non poteva essere vinta. Emmy nacque a Londra nel 1861 da una famiglia ebrea benestante. Nei suoi pochi anni di attività fu saggista, poetessa e scrittrice. A Brighton frequentò un liceo per ragazze fondato da due pioniere dei diritti delle donne. Fu la preside del liceo che apprezzava il talento letterario di Emmy a incoraggiarla a scrivere. Emmy compose Xantippe, un vivace monologo in cui Xantippe, la moglie di Socrate, passata alla storia come la bisbetica archetipica, ci dà invece la sua versione della storia. Una impostazione che qui alla Scuola delle Donne stiamo portando avanti fin dall'inizio. Si iscrisse poi al Newnham College presso la Cambridge University, ma abbandonò prima della laurea perché tornò a Londra per iniziare a collaborare con riviste e giornali, tra cui la rivista Women's World. Frequentava la sala lettura del British Museum, che era luogo di incontro di scrittrici, attiviste e intellettuali, con le quali sicuramente la giovane Amy sperimentava quella rassicurante sensazione di sorellanza di cui ogni donna ha bisogno. A 28 anni, un anno prima di suicidarsi con il monossido di carbonio nella casa dei genitori a Bloomsbury, pubblica il suo primo libro, Il racconto di una bottega, che la Scuola delle Donne qui propone. Nello stesso anno esce Reuben Sachs, una storia ebrea con la quale, pur essendo una sua sincera estimatrice, vuole riequilibrare la visione sentimentale della comunità ebraica che George Eliot aveva dato nel suo romanzo Daniel Deronda. Amy conosce la realtà di essere una donna ebrea e omosessuale in epoca vittoriana e nel romanzo Reuben Sachs denuncia che per le donne non vi siano alternative dignitose al matrimonio. In La storia di una bottega, le giovani sorelle Lorimer rimangono orfane, ma si rifiutano di essere separate tra i parenti che si offrono di ospitarle e scelgono di restare insieme, difendendo un'indipendenza davvero faticosa in età vittoriana e sopravvivendo grazie al proprio lavoro. Si trasferiscono in Baker Street, nel centro di Londra, proprio al numero 20 di Sherlockiana Memoria e aprono uno studio fotografico. La storia di una bottega di Amy Levy è edito da Jo March, tradotto da Valeria Mastroianni e Lorenza Ricci e letto per la Scuola delle Donne da Giorgia. Da Devana, buon ascolto.